24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Eccola qui, la politica italiana è riassumibile sempre nello straordinario e attualissimo Benigni, col quale iniziamo anche oggi 24 mattino, quando sono le 6:33, cari italiani. Forza, lo schema Allegri è sempre di moda, eh? Lo schema è sempre di moda. Dai, forza, dai! Siamo qui, oggi c'è Anita Panizza in redazione, è stata sbrandata. Salutiamo sempre Miriam Lucchetti, la febbre, ma tornerà presto. Il nostro alpino Peter Bescapè è qui in regia. Il Parlamento è pronto? Sì, cioè nel senso la serranda, quella roba lì. Il caffè volentieri a tutti quanti. Evviva, evviva. Mentre oggi torna, oggi torna dal Messico. Ragazzi, sta succedendo un casino e Letta in Messico. E succede quando uno ha dei viaggi programmati istituzionali, ma torna oggi, allora troverà Renzi che attacca la De Girolamo, i partiti divisi sulla legge elettorale. Adesso spunta una telefonata dai giornali di Alfano con Ligresti. Oh mamma mia, adesso Alfano. Ma in realtà in questa telefonata pare organizzino una cena. Viene su a Milano, sì, porta la moglie, no, non c'è, venite in tanti, la tavolata è grande. Non mi sembra una telefonata, ma adesso Alfano, anche Alfano con Ligresti. Viene giù tutto, cara Paola Saluzzi, viene giù tutto. Ma è il momento in cui dobbiamo diventare tutti funamboli. Sì, ah, vabbè, grazie. Voglio dire, grazie. Quando è che torniamo funamboli? È il momento saggio in cui dobbiamo staccarci da questa terra troppo piena. Vabbè, di pochezze, di mi cose, fa sempre lo spot, buongiorno, mi fa sempre lo spot. Lo spot a Milan non è dovuto, è giusto. È giusto, è diverso. Buongiorno. Sei veramente una straordinaria. Una straordinaria Paola Saluzzi di Sky TG24 pomeriggio. Anzi, di Sky, e che fa Sky TG24 pomeriggio? Così, pomeriggio. Così è meglio. Saluto anche Luca Dini, ben ritrovato, il direttore di Vanity Fair. Buongiorno. Eccoci qua. Ma noi che ce ne frega della legge elettorale? Che ce ne frega di Girolamo? Che ce ne frega? Ah no, ce ne frega di Hollande, la vicenda Hollande. Ma certo, nessuno è interessato alle cose terrene, ma Hollande, che ha promesso, pensate, pur di non parlare, ha promesso 30 miliardi di euro di sgravi. Cioè, a questo punto, Paola, ieri la sensazione era che avrebbe parlato per le successive 6 ore, sì, per stremare la stampa e anche, esatto, il governo, esatto, pur di non affrontare un tema quantomeno scabroso dal punto di vista organizzativo, vogliamo dire così. Sì, mettiamo, cioè, così. Sei il presidente di una nazione, certo, occhio e attenzione. E ti fai mandare la guardia del corpo coi croissant a colazione. Croissant. E che insegna un po' anche ai francesi tutti, senza difendere ruoli di bandiera, perché guai a dire tutti ci abbiamo la rogna, però che, voglio dire, certi problemi ce li hanno tutti. Ecco, non fate i maestrini, cari francesi. E poi, ma questo lo chiederemo dopo. Sì. Hollande, due punti, perché? Oh, ma infatti a questo arriverò tra poco. Prima vorrei il parere del direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Intanto, caro direttore, quanto è valutata sul mercato una bella intervista a Julie Gayet? Direi almeno un 100.000 euro. Almeno un 100.000 euro? Vabbè, però. Così sparo. Spari. Detto da uno che non compra le interviste, però insomma, credo che sì. Più o meno sia questo. Quanto vale invece dal punto di vista, quanto potrebbe valere dal punto di vista del valore commerciale? Insomma, intervistare, a parte che non penso sia molto facile, una bella dichiarazione di Julie Gayet o anche di, come si chiama lì, Rottweiler. Quanto potrebbe valere, caro direttore? Tanto, eh? Ma la Valerie, sì, sicuramente anche lei, ma la Gayet forse di più, perché potrebbe raccontare la verità. Ma insomma... E chi c'è da raccontare? L'intervista a Hollande. Sicuramente sì, a Hollande, anche perché attenzione, adesso c'è, ovviamente ogni giorno porta la sua, come dire, o pena o notizia. L'ultima sarebbe, Paola, tieniti forte, che Julie Gayet sarebbe... Un complotto. No, sarebbe... No. Incinta di 4 mesi. Ogni giorno c'è un aggiornamento. Ogni giorno ha la sua pena proprio. Non si sa, sono gossip. Ma veniamo alla domanda che tu hai posto. Ma perché? Cosa ha Hollande? Lo chiedo. Attenzione. A difesa totale dell'uomo non bello. Sì. Mi spiego meglio e ci tengo. Il non budino. Certo per politicamente corretto. Ma a difesa totale dell'uomo non bello, che può essere vieppiù intrigante, interessante, di charme e soprattutto può avere il talento a vivere. Quindi a volte il belloccio, ne stanno sfilando tanti a Milano in questi giorni, sì. Come dire, passa e se ne va. Guarda, sei molto poetica, Paola, ma dall'altra parte del vetro c'era... Totano con le patate. Ecco, c'era va Anita... Bene, ha la faccia da totano con le patate in più fetiche. No, ma quindi questo lo devo dire. Dall'altra, mentre tu tentavi in maniera poetica, c'era dall'altra parte Anita Panizza che faceva, sai il gesto, quello dei soldi, quando frega... Ecco. Ieri ce l'ha riassunto Silvia Brasca, qui ha detto con il famoso proverbio veneto che io non conoscevo: lo sgheo fa l'oseo. Questo, in maniera intrigante. Rimane la domanda. Hollande, perché? No, a parte questo, insomma, venendo un po' più seriamente, Luca Dini, ma ti pare possibile che un capo di Stato, la presidenza di un paese, un paese notoriamente che ha il rispetto della privacy totale, ricordiamo che Mitterrand ebbe addirittura una figlia tenuta nascosta dai media, tutti sapevano, ti pare possibile che non si debba pensare un pochino a un complotto, a un qualcuno che gliel'ha veramente fatta su a Hollande, perché è incredibile che si sia messo in una situazione del genere, o no? No, non è incredibile, perché un uomo insomma è mediocre sia come presidente che come uomo. La sua, diciamo, se l'è fatta da solo, nel senso che si sapeva da tempo che c'era questa storia, non è stato neanche prudente, cioè prima o poi i tempi di Mitterrand sono passati da un pezzo, non puoi pensare di essere impunito e invisibile, andare in giro col motorino. E poi era Mitterrand, insomma. Certo. Poi aveva la faccia da Mitterrand, non so come dire, aveva la faccia da presidente, insomma. Ma neanche il talento politico, cioè niente proprio. Niente, vabbè. Devo dire che spero che non ci ascoltino l'ambasciata di Francia, perché se c'è qualche funzionario dell'ambasciata francese che ci sta ascoltando, salutiamo la grandeur parigina e li ringraziamo. Però ricordiamoci che la mongolfiera l'hanno inventata loro. Infatti. Io devo dire che trovo, non per fare il bacchettone, ma trovo fastidiosa il fatto di essere blasé rispetto ai difetti privati delle persone. Cioè sembra quasi che in Francia non si possa essere presidenti se non si ha una doppia vita, è fastidioso quel contrapporsi al puritanesimo totale. Sì, esatto. Non importa niente della vita privata, insomma, va bene, però... Però controllatevi un attimo. Però quanto gli importa della vita privata dei nostri politici? Infatti. Senza difendere nessuno, però voglio dire, Risolini contro Risolini, ribadisco, non facciamo una difesa di bandiera, una difesa d'ufficio, perché non serve, non è logica, ognuno si guardi i fattacci propri. E salutiamo sempre i funzionari dell'ambasciata che ci stanno ascoltando, insomma, massimo rispetto per l'Eliseo, ma siamo, ma per carità, ci inchiniamo. il bunga bunga, no vabbè, il bunga bunga di Orlando, no, non lo so come lo chiameranno lì, forse sì, bunga bunga. In ogni caso, staremo a vedere. Certo, la frase di Hollande è questa, facciamo sentire in francese. Ha parlato in conferenza e insomma ha detto si riposa. Sa vie personnelle? Le ha chiesto di Valerie, si riposa. Ma come si riposa? Cosa vuol dire? Vabbè, insomma, questo è Hollande. Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe. C'est que les affaires privées, ecco, l'affaire se traitent en privé. Questa la capisco anch'io che non sono dans une intimité respectueuse de chacun. Si riposa comunque. Come fa a riposarsi con le corna lunga da stambecco, privata, tra l'altro? Il concetto della vita privata. No, ma poi aspetta, della serie. Questo ha fatto le danze turche da Verdi, Verdiscia, viene da dire, sì. Lasciamo perdere, sulle 6:30 del mattino, da Derviscia sulla prima compagna di Hollande, e come ha detto saggiamente la Bernardini de Pace, mia cara, chi la fa l'aspetti? Classico, le ruote che girano. E poi senti, non è simpatica sta Valerie, non accende. Ho capito, vabbè, insomma, però... Non accende il tifo femminile, vabbè, lo vogliamo dire? Potrebbe anche accendere il tifo femminile, non lo fa. Solo Seedorf accende il tifo. Va bene. In questo momento ad allenare il Milan. Smettila, non riuscirai a sollevarmi da questo dramma calcistico. Allora, la questione, per venire alle cose italiane, io vorrei, alle 8:15 ne parleremo della vicenda, insomma, razzismo. Allora, vorrei il vostro parere molto su questa iniziativa nuova della Padania. Spesso abbiamo il direttore della Padania, Aurora Lussana. Caro Luca Dini, sai che fanno qui Cecil Kienge, no? L'agenda degli incontri, che sono peraltro incontri pubblici, cioè non è che svelano niente, però sono accusati di dire, ecco, incitano a far pedinare il ministro Kienge per poi contestarlo. Che ne pensi tu? Da quale pulpito? Che devo dire? Penso sia brutto, e penso sia la manovra di un partito che forse ha bisogno di questo per dimostrare di esserci. Dici questo, cioè un modo per ottenere la ribalta, visto che insomma i sondaggi, i voti non stanno un po' calando, no? Insomma, con tutto quello che è successo nelle casse, nelle famiglie, tutte le cose che sono successe a casa Bossi, insomma, non mi sembra francamente il caso di andare in discussione l'attività di un ministro come questo, anche perché stranamente lo fanno solo con lei. No, effettivamente sì, ministro, devo dire, porta avanti gli assenteisti, parlare di delle persone, No, certo, porta avanti il ministro Kienge dei valori che certamente non sono quelli condivisi politicamente dalla Lega. Ma e quindi si possono discutere, attaccare. È chiaro. No, ma anch'io devo dire che poi ne parleremo alle 8:15, avremo anche il capogruppo Bitonci della Lega, che l'ha definita ministro della negritudine. Questo. Cara Paola Saluzzi, dai, adesso il tuo equilibrio lo voglio proprio esercitare su questa materia, che ti sento. No, lo valuteremo. Sento ribollire i ricci in sottofondo di Paola Saluzzi. Sì, lo valuteremo appuntamento per appuntamento, perché tu puoi dare l'appuntamento di un politico, che grazia, che attenzione nei confronti del politico stesso, poi voglio vedere cosa succede però nelle piazze. Va bene, anche noi abbiamo un appuntamento quotidiano, anche noi sappiamo, certo non mi paragono a un ministro, ma ognuno di noi sa dove essere trovato tutti i giorni, perché tutti i giorni siamo al lavoro, o pubblicamente o localmente, dove ci troviamo non ha importanza. Bisogna vedere come gli altri utilizzeranno queste date e sì, questi appuntamenti. È un po' rischioso, sì, è mettersi su questa china è un po' rischioso, perché purtroppo in questi tempi è un po' rischioso, però evidentemente ci si assume la responsabilità di quello che si sta facendo, perché la politica è anche contrapposizione. vediamo che tipo di contrapposizione. Ma infatti oggi la Padania, io ce l'ho qui, si difende così: gli appuntamenti del ministro sono sul suo sito, e quindi assolutamente, sì, ma certo, ma però voglio dire, è chiaro che giocare un po' con questo è un po' giocare con una materia pericolosa, ecco, diciamo così. Rischi di trovare, al di là dell'appuntamento che giustamente è segnalato anche sul sito, rischi di trovare il fesso di il fesso, è chiaro. Che dicevi, direttore? È un po' come quello che succede sul fronte Notav, cioè giocare e strumentalizzare l'agitazione delle persone, poi è una responsabilità che ci si assume e si deve pagare. In ogni caso, insomma, ancora pagina 3 della Padania: basta con la negritudine della ministra Kyenge. 24 mattino. Oh, Mr. Miller, non sembra di essere te un po' buonista nelle tue dichiarazioni. Mio zio diceva sempre: medico pietoso fa piaga puzzolente. Tagliare via sti gente qua, via. Alessandro, hai ragione, sarebbe ora di dire basta. Quando nel pollaio sono tanti galli a cantare, non si fa mai giorno. E i galli non fedano, ma mangiano anche la parte di chi produce. Ciao, questo è un mondo guasto di ladri. Buongiorno signor Milan, volevo dire una cosa a proposito di Renzi. Deve abbassare la crestina, ma chi si crede di essere? Dei 2 milioni che lo hanno votato, la metà non lo rivoterebbero più, con l'arroganza che dimostra adesso, faccio tutto mio, eccetera, eccetera. L'ha sempre detto Erbelli e poi Trilussa. Se vuoi sapere la storia italiana che vi è da qualche secolo discussa, ricorda. La politica è puttana e in maggior parte gli uomini sono ladri, col chiodo fisso alla filigrana, capaci di insozzare pure le madri. Sono socialisti se stanno a digiuno, quando se magna sono conservatori. Pensano a loro, non pensano a nessuno, e la cassa se fa con i nostri errori. L'abbiamo rimesso come appello, tornellator cortese, dove sei? Torna! Cara Paola Saluzzi è scomparsa. Anche il contadino d'Eterni, però a me piaceva tanto. Mamma mia, il contadino d'Eterni. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucambo dalla mattina alla sera e a pranzo. Una cipolla e un pezzo di pane duro, e a cena una minestra scunnita. Questa era la ricetta per i politici del nostro contadino di Terni. Grazie. Allora, vabbè, questa vicenda della Kyenge, insomma, è una vicenda un po' così. Vi vorrei chiedere anche il vostro parere su Nunzia De Girolamo. Allora, sentiamo subito Matteo Renzi l'ha paragonato al caso Josefa Idem, ve lo ricordate, no? Questa politica che mangia tutto. Josefa Idem, una vicenda di IMU, si dimise. Nel caso della De Girolamo il PD ha chiesto che lei vada in aula, che racconti come sono andate le cose, la sua versione dei fatti. Nessuno fa dei processi, ancorché politici, in contumacia, e alla luce di quello che la De Girolamo dirà, il PD prenderà la sua posizione, che mi sento di poter dire sarà una posizione univoca. Perché non come la Idem, e io chiudo poi l'ultima sulla De Girolamo, che così ho risposto tutto, effettivamente la Idem si è dimessa dimostrando uno stile profondamente diverso. Vabbè, lo stile profondamente diverso, non so, Luca Dini, tu sei fatto, è tedesca, sì. E guarda, è lo stesso pensiero che ho avuto anch'io, effettivamente è teutonica nel rigore, diciamo così, no? In realtà è italiana e ha vinto anche tante medaglie per l'Italia, però è profondamente probabilmente legata a uno spirito di rigore, per carità, non ci vogliamo buttare giù, Paola, come italiani. No, aspettiamo le parole della De Girolamo. Mai come in questo momento sia importante ascoltare. No, ma questo certamente le abbiamo già sentite. Alcune sono state già sentite. Sono state già sentite o pubblicate. Attendiamo quello che dirà. Quello che penso. Sì, certo. Che c'è un confine, cioè c'è una cosa è la legalità, e un'altra è l'opportunità. E io in questo caso la penso esattamente come la pensavo sulla Cancellieri. Quando si dicono cose inopportune, anche se vengono ascoltate, nascoste di soppiatto, una volta che sono diventate di pubblico dominio, se ne deve rispondere. So solo che oggi Repubblica, ma lo cito perché l'ho letto, ha pubblicato, sai che Stefano Bartezzaghi, sapete che è un grande insomma enigmista, ha fatto questo anagramma di Nunzia De Girolamo, lo zio munge danari. È l'anagramma di Nunzia De Girolamo. Andiamo subito a vedere. L'ha detto Bartezzaghi. Dai, su, vogliamo mettere in dubbio la parola del grande Bartezzaghi. Allora, io voglio citare oggi. Qua Vanity Fair dov'è? Ma perché Vanity Fair si nasconde quando? Eccolo qua. Lo vuoi pronunciare tu, direttore, il nome Matthew? McConaughey. Ecco, sentite, no? lui sì che ha vissuto in America. No, per questo è com'è Pallasaluzzi la reazione? Ecco. Tra l'altro pubblicato quando aveva 25 anni. In copertina, fai la brava. Però io quello che voglio segnalare e che ho trovato straordinario, caro Luca, lo devo dire, è il vanity da marciapiede che avete fatto, cioè questa dicitura dell'articolo. Avete fatto un servizio sulle tante persone, tra l'altro corredato delle foto veramente straordinarie, pazzesche. Di chi? Possiamo usare la parola? A me piace la parola barboni, non è per nulla, o comunque le persone che si trovano per strada, disadattate, che probabilmente nella vita hanno avuto delle vicissitudini e si trovano a un certo punto della vita, no? Per strada. Perché avete fatto questo servizio? Ma guarda, perché siamo partiti in realtà esattamente dalle foto, che sono fotografie, sono... Appunto, diciamolo senza ipocrisia, barboni fotografati come attori teatrali, con una luce pazzesca, sono incredibili le foto. Sono persone come quelle che a volte ti incontri e ti chiedi ma come si arriva a essere così, che cosa è successo nella vita di una persona, e abbiamo provato a rispondere. C'è una foto di Antonietta, sono tutte foto in bianco e nero, cioè Antonietta racconta le sue, non so, centinaia di rughe in faccia, sembra raccontare una vita proprio, no? Ma veramente, esatto, bellissima. Sembra un capo Sioux, è vero. E avete raccontato insomma come in questo servizio corredato da queste foto come ci si può anche ritrovare in una parte, in un momento della propria vita, in situazioni così. Dalla parte sbagliata. O non sbagliata, insomma, comunque persone che vivono vite che ci sembrano proprio vite parallele, no? Perché le sfioriamo appena e dedichiamo a queste vite zero secondi della nostra di vita, diciamolo francamente. Va bene, dai, volevo segnalare questo. Tu, cara Paola Saluzzi, che fai oggi? Io posso dare un appuntamento che reputo importante, visto che ne abbiamo tanto parlato anche qui con il direttore Lucadini, con te. Fra meno di un mese la nostra Wondi, con le sue chemio avventure, sbarca in libreria. L'abbiamo seguita per tanto tempo, l'abbiamo poi a un certo punto lasciata stare perché era in giro per il mondo. Reputo e credo che sia uno di quegli appuntamenti su cui mettere il segno rosso sul calendario. Vabbè, pensa un po', io so anche la data, e vi svelerò anche il perché, il 12 febbraio, molto bene. Siamo pronti, volevo dire questo tanto per fare il paio con questo vanity che compriamo come sempre ogni settimana, però con questo servizio sui barboni lo compriamo due volte in più oggi. Bene. Grazie a tutti, ci troviamo la prossima volta. Paola Saluzzi, Luca Dini, è tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta.

ecco che sui giornali viene tutto posto come una sorta di istigazione alla, un incitamento alla contestazione in maniera manifesta, come dire, cari italiani, se volete incontrare, vedere il ministro Cécile Kyenge, lo trovate, la trovate qui. Ecco, questa vicenda in qualche modo ha sopravanzato un po' all'italiana, con le polemiche sui giornali, la vicenda del reato di clandestinità, che affronteremo, comunque lo affrontiamo con le vostre chiamate, come al solito, se volete al numero verde 800 24 0024. Ma voglio salutare anche il capogruppo al Senato della Lega, Massimo Bitonci. Senatore, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Così come saluto Livia Turco, ex ministro, ora è presidente del Forum Immigrazione e Politiche Sociali del Partito Democratico. Benvenuta, Turco. Allora, Bitonci, intanto chiariamo, lei difende questa iniziativa di, della Padania, che assomiglia molto a un, come dire, la, la incontrate qui, se volete, il ministro Kyenge. Mi sembra che sia un'iniziativa assolutamente lecita, nel senso che la, la Padania è un giornale libero, come il giornale della Padania c'è anche Radio Padania, e sono semplicemente messe tutte le, gli appuntamenti e le iniziative fatte da si chiama Cécile Kyenge. Non mi pare che ci sia nessun riferimento e nessuna indicazione a, né a contestarla. No, ma di illecito non c'è, di illecito non c'è nulla. Mi pare che, come al solito, ci siano sempre delle esagerazioni, e quando la Lega dice qualcosa, come io ieri in aula, che ho letto un passaggio non scritto da me ma da Giovanni Sartori, un famoso politologo non certamente leghista, e quindi ho parlato di negritudine come in Francia, ecco che subito una ridda, devo dire la verità, di insulti anche nei miei confronti, l'hanno. Di offese. Ecco, chiariamo anche questo, di affrontare in maniera demagogica. Chiariamo anche questo, infatti, perché lei ha detto basta col ministro della negritudine, cioè il ministro Kyenge. Cosa intendeva? Lo spieghi agli ascoltatori. Io non ho fatto nient'altro che leggere un articolo di Giovanni Sartori, insomma, dove lui diceva che la gente ha paura di uscire la sera e che il ministro Kyenge favorisce col suo atteggiamento la negritudine come in Francia. Sappiamo benissimo che la negritudine è stato un movimento letterario, culturale, politico che si è sviluppato nel XX secolo, soprattutto nelle zone coloniali francesi. Ecco. Quindi non era assolutamente un'affermazione offensiva nei confronti di Cécile Kyenge. Infatti mi sono stupito poi che il presidente della prima commissione, Finocchiaro, abbia parlato basta attacchi sessisti e razzisti da parte del presidente. Ma però le chiedo questo, se la Kyenge non può essere nemmeno menzionata, e allora cosa ci sta là? Però sa, oggi il ministro ha risposto su Repubblica, dice stiamo andando verso l'uccisione della democrazia, nessuna forza politica può tollerare questo razzismo strisciante. Cioè, lei mi dica francamente, perché pubblicate solo l'agenda di guarda caso di un ministro, il ministro Kyenge? Perché contestate un unico ministro, il ministro Kyenge? Cioè, è abbastanza chiaro, perché il ministro Kyenge, da quando si è insediata, a parte non fare assolutamente nulla nel suo ministero, perché non abbiamo visto nulla di concreto, però ha cominciato con una serie di dichiarazioni e una serie anche di iniziative a voler demolire, come è successo poi, il reato di clandestinità che era stato introdotto da noi nel 2009, e come sta tentando di demolire quello che è un cardine italiano, che è quello dello ius soli, dello ius sanguinis. Lo ius soli in Europa esiste solamente in Francia e oltreoceano in America. Noi abbiamo sempre avuto lo ius sanguinis, abbiamo una situazione territoriale estremamente delicata, perché l'Italia è un ponte naturale verso l'Europa, dai paesi nordafricani. sappiamo che ci sono milioni di persone che stanno tentando di venire in Europa, lo vediamo ogni giorno dall'inizio dell'anno. Diciamo, voi la contestate per quello che dice, la contestate sulle sue idee. Perché dice delle cose incredibili, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini, perché tutto dopo è là, cioè nel senso che le cose che dice creano una situazione per cui chi è dall'altra parte dell'oceano vede pensa l'Italia come un Eldorado, un mondo felice. Vabbè, la posizione ma è molto chiara. Veniamo proprio su questo punto, Livia Turco, poi se vuole parliamo del reato di clandestinità, che forse è il tema più concreto, però le polemiche sui giornali oggi sopravanzano, le polemiche per questa iniziativa della Padania e della Lega sopravanzano, diciamo, il tema del reato di clandestinità. Lei come la vede? Vede un attacco razzista nei confronti del ministro? Vedo che sento che l'onorevole Bitonci, il senatore Bitonci, sta, come si dice, correggendo il tiro, dimenticando e facendo dimenticare che dall'inizio che il ministro Chiang ha iniziato la sua attività c'è stata nei suoi confronti una sequela di insulti, di parole, e siccome le parole hanno un grande senso, tanto più quando sono dette da esponenti delle istituzioni in luoghi pubblici. C'è stato nei suoi confronti, ci sono stati gesti di mancanza di rispetto, e sono stati fatti questi gesti di mancanza di rispetto che ledono la dignità della sua persona e ledono anche la dignità della funzione istituzionale. Non a caso nei suoi confronti, per il colore della sua pelle, per il paese da cui proviene, è stata derisa la sua famiglia. Allora, come lo vogliamo definire tutto questo? Io non amo i paroloni, ma tutto questo non può che essere definito in un modo che si chiama razzismo. E io sono molto preoccupata del fatto che non ci si indigni nel modo adeguato, che non ci sia una reazione nel modo adeguato. Perché le parole contano, le parole sono pietra, soprattutto quando le parole sono pronunciate da personalità pubbliche nei confronti di una figura istituzionale, perché le istituzioni sono sacre, le istituzioni sono quelle che devono dare l'esempio e le parole contano. E allora, altra cosa è, piano legittimo, ma non è questo quello adottato dalla Lega, legittimo se la Lega, anziché quella sequela di vituperi lanciati in questi mesi, le contestazioni in ogni luogo che va la ministra Chiang, pubblicare la sua agenda, ma perché mai si pubblica l'agenda del ministro Chiang e non quella di altri ministri? Questo? Che cosa vuol dire questo se non prendere di mira una persona? Altra cosa è la discussione sullo ius soli e il reato di immigrazione clandestina. Sì. Su questo infatti sono due piani diversi. Ma infatti senatore Bitonci, Bitonci, distinguete i piani. Un conto è essere contrari allo ius soli e volere la difesa del reato di immigrazione clandestina, ma il dibattito politico lo si fa in modo civile, nelle sedi istituzionali, senza pubblicare le agende, senza ricorrere in modo sistematico al turpiloquio, al vituperio della persona, agli insulti, senza fare in modo che ogni luogo in cui va la ministra Chiang ci siano manifestazioni, contestazioni. Questo è inaccettabile perché lede la dignità della persona e lede l'autorevolezza e la dignità delle istituzioni. Io è questo che dicevo prima al senatore Bitonci. Senatore, un conto è contestare quello che si vuole dal punto di vista della posizione politica del ministro, però io oggi per esempio Repubblica, lei mi dirà e giustamente prenderà le distanze da quello che è successo, ma in questi mesi ricordiamo il bonga bonga, l'invito mai nessuno che la stupri, una consigliera, l'accostamento con l'orango, i manichini insanguinati, il lancio di banane, l'accostamento con le prostitute, insomma ci sono stati degli episodi che non sono accaduti per il ministro Franceschini, per il ministro Quagliariello, per il ministro Lorenzin, dico dei ministri a caso, i primi che sono avvenuti per una persona sola, senatore Bitonci. Perché per quello che dice la Chiange, al di là che un grande movimento come la Lega Nord, che non è formato da tre persone ma da 400 sindaci, tre governatori e tutta una serie di presidenti di provincia, consiglieri comunali, in questo grande mare ovviamente qualcuno, qualche battuta o qualche insulto può anche capitare, e su questo ovviamente io sono il primo a dire che questo è sbagliato e sì, sicuramente fa un favore a Cécile Kyenge, però lei si ricorda nella storia della Lega una manifestazione violenta, una volta che abbiamo dato fuoco a un'auto durante una manifestazione, picchiato qualcuno? Però, mai, perché ma noi le battaglie le facciamo, può esserci anche una parola in più, per cui ma questo io certo. Vedo in questa difesa di Livia Turco, veramente, sì. Volendo attaccare la Lega e spostare il tiro sulla Lega Nord, una inconsistenza totale, perché non c'è sistema, non c'è modo di difendere quello che stanno facendo, perché cancellare il reato di clandestinità che esiste in tutta Europa, perché sì, ce l'abbiamo in Belgio, in Danimarca, è in Germania, sbagliato. In Grecia, e questa è un'opinione politica. Fa, questa... Diciamo la Livia Turco, che c'era anche in Vaticano. Però, mi scusi, Bitonci, questa... Certo. Anche in Vaticano, a Roma, c'era il reato. Però su questa adesso ne parliamo. È una legittima posizione politica la sua. Le faccio però un'altra domanda sulla questione. È vero che non istiga alla violenza pubblicare l'agenda del ministro Kyenge, ma, non so, voi vi siete posti il problema che magari c'è una di quelle teste calde o di quei deficienti che invece vogliono fare qualcosa di più e che vedendo questa cosa dicono c'è il ministro Kyenge, magari voglio andare a dirle in faccia qualcosa. Cioè, scusi direttore, ma è mai successo? Cioè è mai successo in più di 20 anni di storia della Lega che un leghista abbia messo le mani addosso a un'altra persona durante una manifestazione? Guardi che io sabato ero a Torino alla manifestazione a favore di Cotta, c'è stato un corteo con le fiaccole, non è stata sfiorata una, nonostante qualche contestazione lungo strada, c'era perfino dei banchetti anche di Notava, siamo passati di fianco, ci siamo salutati, abbiamo anche scherzato, cioè alla fine sono queste le nostre manifestazioni. Vediamo manifestazioni di altri movimenti come vanno a finire. Quindi anche lei dice Livia Turco, sono contestazioni che vengono fatte, diciamo, contestazioni magari un po' un di sangue. In un grande movimento di migliaia e migliaia di persone può anche succedere, come succede anche a loro, come succede anche a loro, perché io ricordo che ieri il vostro rappresentante del welfare, che mi ha pesantemente attaccato, oggi si ritrova indagato, per peculato dal giudice Sicilia. Insomma, Livia Turco, un attimo Bitonci, Livia Turco dice sono manifestazioni sanguigne, magari nel senso appassionate, ma tutte assolutamente nell'alveo della tranquillità, della legalità. Dice. Ma contesto radicalmente questa affermazione, con molta convinzione e anche pacatezza, è un'opinione peraltro ampiamente diffusa, faccio parte di un partito popolare, vengo da una lunga militanza politica, ho fatto la caterva di manifestazioni di piazza, difendo le manifestazioni di piazza, conosco benissimo ci possono essere intemperanze, parole fuori luogo, ci mancherebbe, ma qui non è la questione di espressioni di intemperanza che possono provenire magari da qualche singolo militante, no, qui sono parole che sono utilizzate in modo sistematico dai dirigenti di quel partito, e purtroppo a fronte di parole gravi che erano state date, io mi ricordo che avevo chiesto al ministro Maroni, di cui ho sempre avuto grande stima, proprio perché è stato anche ministro degli interni, di dissociarsi, di prendere le distanze da quelle parole, di criticarle, perché questo è l'esercizio della funzione dirigente. Ci possono essere delle intemperanze tra la gente, ma chi è nelle istituzioni e chi guida un partito e chi esercita la funzione dirigente, quelle parole le corregge. E invece in questo caso i vituperi, le volgarità in nome della pelle, in nome del paese da cui si proviene, le volgarità più inaudite non sono venute dai singoli militanti, sono venuti da dirigenti, e quando sono venuti quei vituperi nessuno dei dirigenti, neanche, mi dispiace molto per la stima che ho per lui, neanche il ministro Maroni ha preso le distanze. Quindi non siamo a intemperanze popolari, non siamo a manifestazioni di un contrasto politico, perché ho detto benissimo, il contrasto politico ci mancherebbe, ma il contrasto politico deve avvenire in modo argomentato e deve avvenire sempre nel contesto della, ma a proposito di argomenti, dopo la pubblicità allora parleremo di questo reato di clandestinità, abolirlo oppure no. Siamo con Livia Turco e Massimo Bitonci, tra un attimo anche con gli ascoltatori. 24 Mattino. Alle 8:38 minuti, eccoci qui. La Padania chi? Così ha reagito ieri Cécile Kyenge all'inizio di questa polemica. Siamo con Massimo Bitonci, capogruppo della Lega al Senato. Siamo con Livia Turco, ex ministro del Partito Democratico, presidente del Forum Immigrazione Politica e Sociale del Partito. Gli ascoltatori, Fabio da Reggio Emilia. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Dica. Guardi, io volevo cogliere l'occasione, visto che è anche presente il signor Bitonci, di dire che la Lega dovrebbe essere un po' meno ipocrita, perché le parole hanno un peso, perché quando si cita la negritudine si cita, dal mio punto di vista, con un preciso intento. Io ritengo una cosa, che il ministro Kyenge sia una persona italiana, che ha laureata e con un merito di avere la pelle nera. Non conta il colore della pelle, non è un demerito, ha ragione, non conta. E credo che comunque vada valutata per quello che fa, non per quello che è, e credo che la Lega debba come partito debba essere presente nel nostro secolo con una mentalità un po' più aperta, cioè nel senso che l'immigrazione e l'integrazione deve essere affrontata in maniera democratica e poi sì, con leggi certe, magari con anche punitive in maniera certa, ma ritengo comunque che sia un pochino ipocrita. Vabbè, insomma, questo la parlare di negritudine e poi dopo poi tirare dietro la mano. Insomma, lei dice, se è parlato di negritudine, tra poco risponderà Bitonci, è perché insomma è ipocrita poi dire riferimento era dei movimenti culturali. Stefano da Brescia, la città che ha visto il ministro Kyenge contestato ultimamente. Stefano, buongiorno. Sì, salve, mi sente? Benissimo, dica. No, ecco, quello che pensavo io, non sono stato presente al discorso della dottoressa Kyenge. Il fatto è che secondo me non è tanto bloccare l'immigrazione, ma è cercare di fare in modo che vi sia un'immigrazione più specifica verso le potenzialità che gli altri paesi hanno da offrire. Mm. In Italia si parla molto spesso della nostra fuga di cervelli. Sì. Io vado in università e molto probabilmente quando smetterò mi piacerà anche fare un viaggio, trovare lavoro all'estero per esperienza mia, un giorno tornare. Ma secondo me è sbagliato, anche attraverso lo Ius Soli, permettere un'immigrazione generalizzata a chiunque. Secondo me anche con una sorta di incentivazione sia per gli italiani, per gli studenti italiani, ma anche e soprattutto per le intelligenze straniere. Sì. Cercare di fare in modo di motivare queste persone a venire in Italia, studiare, lavorare, ma a alti livelli, nella tecnologia. No, è chiaro, lei in pratica mi pare che possa sposare, non so se l'ha letto ieri o l'altro ieri, l'articolo, l'editoriale sul Corriere della Sera di Angelo Panebianco, che ha detto basta con una politica dell'accoglienza, facciamo una politica della convenienza, cioè accogliere e far arrivare quegli immigrati che servono. Questa dovrebbe essere una politica seria per un paese. Vorrei chiedere su questo, per introdurre il discorso di altri di clandestinità, i pareri. Livia Turco, lei che ne pensa? Sa che Panebianco è stato contestato ieri al grido anche da un gruppo di insomma studenti, centri sociali, razzista, gli ha messo dello spray sull'università di Bologna dove insegna. Che ne pensa? Politica della convenienza? Guardi, io credo che ci debba essere un mix di politica della convenienza e di politica dell'accoglienza. Sono per distinguere quando si tratta di immigrazione economica e quando si tratta di richiedenti asilo e rifugiati. Purtroppo in Italia si parla dell'immigrazione senza sapere bene di che cosa si parla. Ci sono polveroni, affermazioni generali generiche. E questa è una grande colpa della politica, ma anche dei media, e si dimenticano le distinzioni fondamentali. Nell'articolo di Panebianco quello che io critico è la distinzione che lui doveva fare tra l'immigrazione economica, per la quale certamente bisogna applicare il principio della convenienza, di quanti sono in grado di accoglierti. Io non userei la parola convenienza perché stiamo parlando di persone, ma sicuramente il principio dell'utilità. Della sostenibilità economica e sociale, ecco, questo è il mio principio, la sostenibilità economica e sociale della immigrazione economica. Noi non possiamo accogliere tutti, ma possiamo accogliere un determinato numero. Poi ci sono i rifugiati, i richiedenti asilo, quelli che scappano dalle guerre, dalle torture, perché questo è il mondo di oggi. Rispetto a questi, noi siamo tenuti, obbligati dalla nostra Costituzione, dalle direttive europee, dalla Convenzione di Ginevra, ad applicare. Ma questa è la critica che lei fa a Panebianco, che non ha diciamo, considerato questa ampia una categoria. Una distinzione fondamentale. Senatore Bitonci, lei invece credo che Panebianco l'abbia anche in qualche modo citato e sostenuto, sia su Panebianco e su una risposta all'ascoltatore che dice è ipocrita parlare di negritudine e poi dire non volevo mica riferirmi a che ne so, al colore della pelle, o non volevo fare riferimenti di tipo di questo tipo. Bitonci. Ho ascoltato con piacere le dichiarazioni di Livia Turco quando dice che non possiamo accogliere tutti. Noi della Lega siamo assolutamente d'accordo, ma deve spiegarci perché vogliono abolire la Bossi-Fini, hanno fatto in modo di reintrodurre e di cancellare il reato di clandestinità, vogliono modificare lo Ius Sanguinis in Ius Soli, che sono tutte delle modifiche legislative che non faranno nient'altro che far arrivare ancora più migranti nel nostro territorio. È logico che noi pensiamo che l'immigrazione deve essere selettiva, specializzata, che abbiamo dei lavori che oramai gli italiani non fanno più, però vede, questo è un momento di crisi pazzesca, dove abbiamo una disoccupazione giovanile che arriva al 40% e una disoccupazione in generale tra disoccupati e inoccupati di 6 milioni di persone che sono in giro. C'è posto di lavoro adesso neanche per gli italiani, quindi non abbiamo certamente bisogno di migliaia di persone che arrivano nel nostro territorio e che sono assolutamente despecializzate. Per quanto riguarda il ragionamento che ha fatto prima l'ascoltatore, io dico solo una cosa: io nel mio intervento ieri non ho offeso assolutamente nessuno, ho detto che Cécile Kyenge ha fatto male il ministro, lo fa malissimo, faccio solamente un esempio visto che bisogna parlare di cose concrete, abbiamo un problema di una quarantina di cittadini italiani che hanno tentato di fare un'adozione in Congo, sono rimasti là per un lungo periodo di tempo. Ce ne siamo occupati. Cécile Kyenge ha cercato, è andata in Congo, ma non è riuscita a ottenere assolutamente nulla, tanto che è stata criticata pesantemente anche dal proprio partito. Cioè non c'è una cosa che possiamo enunciare di questo. Sì, ma d'accordo, ma vede il citare la negritudine, il citare. Io le faccio questa domanda, Bitonci. Lei si ponga per un attimo nei panni del ministro Cécile Kyenge, sarebbe contento di quello che è successo negli ultimi mesi? Cioè, per un attimo si metta nei suoi panni. Ma secondo lei, quando una persona ha un ruolo importante, che sia dal sindaco del comune al presidente di provincia, regione, al ministro, come un ruolo di governo, non è sempre nell'occhio del ciclone, non riceve continuamente sollecitazioni, molte volte anche insulti. Quando era ministro Maroni, probabilmente avete fatto anche molte trasmissioni sugli insulti che venivano dal centro-sinistra. Ha ricordato appena adesso lei come è stato trattato Panebianco dai collettivi, ricordiamo, a Livia Turco, di sinistra. Non sono collettivi della Lega, sono collettivi di centro-sinistra. Infatti è sbagliato, che è sbagliato. Si mischiano con il loro partito. Infatti, giustamente è normale, secondo me è normale. Che quando uno è ministro e tocca degli argomenti così delicati che vanno a colpire la sicurezza dei cittadini e che è un problema gravissimo di allarme sociale, dove anche il governo fa dei provvedimenti come quello che stiamo osteggiando sia alla Camera che al Senato, che è quello dello svuota carceri e della messa in prova che metterà nelle strade migliaia di delinquenti, quando si fanno queste scelte è logico che la reazione deve essere dura. Io dico, non dobbiamo scendere alle offese personali, questo è sbagliato, ma dire che un ministro è inutile, inefficace, può essere detto. Ma questo sì, questo assolutamente, ripeto, rientra nelle contestazioni politiche che si fanno. Eccoci qui alle 8:49 minuti, sentirei Francesco da Bari che ci ha chiamato. Francesco, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo intervenire in merito all'argomento. Sì. Restringendo un attimo il campo, perché poi quando si inizia ci si si allarga e si lo restringe, lo restringe. Allora, guardi, il problema del reato di clandestinità c'è in tutta Europa, ci serve sicuramente soprattutto per la nostra posizione geografica, non è un'invenzione nostra, né della Lega né di chi è contro la Lega, io chiamo dal sud, sicuramente leghista non sono e non condivido neanche certi metodi e certe, diciamo, esagerazioni della Lega, però bisogna pure guardare la realtà dei fatti, noi siamo di fronte a un'invasione sia di gente che viene con intenzioni poco, diciamo, eleganti, sia di gente che scappa dalle guerre. Bisogna gestire in qualche modo questa situazione. Non c'è, no, ma gestirla sì. Ora, secondo lei il reato di clandestinità è un reato che efficace, cioè che manterrebbe? Sul fatto che l'ammenda probabilmente sì. È inutile perché non verrà mai pagata. Ma sì, ma guardi, non solo è inutile l'ammenda, il procuratore di Agrigento che gestisce tutte le questioni di Lampedusa dice: ho aperto negli anni 13.000 fascicoli, credo, e non sono, quindi ho impiegato personale, magistrati, e non hanno portato a nulla, cioè dopo un po' li chiudiamo perché questo è il dato di fatto dal punto di vista pratico, però Livia Turco, effettivamente il reato di clandestinità c'è in molti paesi, perché in Italia non dovremmo averlo? Sì, c'è in molti paesi e in Italia penso che possiamo farne a meno esattamente per la ragione che ha detto lei, che è una misura assolutamente inefficace. Le misure punitive, cioè la ragione per cui contestiamo la Bossi-Fini, non è che fa che perché vogliamo che entrino tutti, questa è una favola. Noi siamo stati quelli che hanno introdotto le quote d'ingresso, che hanno introdotto il principio della selezione. E poi vorrei informare, visto che si parla di immigrazione sempre prescindendo dalla realtà, che non è che siamo invasi dagli immigrati, cioè gli immigrati stanno tornando nel loro paese, la crisi economica sta colpendo anche loro. E quindi il problema è gli immigrati che se ne vogliono tornare nel loro paese. Quelli che vediamo arrivare sono richiedenti asilo e rifugiati che non vogliono rimanere in Italia, ma vogliono andare negli altri paesi europei. E il problema è semmai di modificare il Trattato di Dublino e la politica europea sull'accoglienza e il diritto di asilo per avere un'equa distribuzione. Il problema semmai è quello di evitare la vergogna per cui noi abbiamo quei centri di Lampedusa e dotarci di un sistema di accoglienza che sia decente. Per i CIE, che sono l'altra vergogna del nostro paese, e per il reato di immigrazione clandestina, noi sprechiamo dei soldi, impegniamo la magistratura su delle cose che non servono, sono misure inefficaci. Introduciamo questo concetto nella valutazione delle politiche dell'immigrazione, il concetto della efficacia. Il reato di immigrazione clandestina lo contesto perché è costoso e inefficace. Non ha portato a nulla. Mi pare non che ci, dal punto di vista simbolico e culturale è sbagliato, perché stiamo parlando di persone che non hanno commesso reati, ma soprattutto perché inefficace. È costoso e inefficace. Su questo, senatore Bitonci, il procuratore di Agrigento, dalla Lega ci sono stati attacchi per esempio ai cosiddetti magistrati di sinistra che non hanno, non so se si riferiva e se vi riferivate anche al procuratore di Agrigento, visto che per una questione geografica è quello che tratta più di tutti questi casi, però anche questi microfoni ha detto non porta niente. Niente, cioè io apro un fascicolo, ma poi magari la persona non è identificabile, l'ammenda, non ha i soldi e quindi non serve, cioè dal punto di vista pratico non porta a nulla questo reato. Bitonci. Beh, guardi, della sicurezza integrata, nella sicurezza delle città, uno dei cardini fondamentali è la deterrenza. Avere il reato di immigrazione clandestina per un paese può essere che abbiamo visto che molti giudici hanno disapplicato fin dall'inizio il reato legandolo a problematiche del diritto internazionale, dei diritti umani, e questo sicuramente è sbagliato e di una quota parte della magistratura. Però ricordiamo come avere il reato di immigrazione clandestina abbia un effetto soprattutto di deterrenza nei confronti di chi vuole venire nel nostro paese e vuole farlo in maniera illegale. Ma lei è convinto di questo, che abbia una forma di deterrenza? Non lo so. Certo, assolutamente, nel momento in cui noi andiamo a cancellarlo e la notizia comunque fa eco al di fuori dell'Italia, nei paesi nordafricani, in altre zone dove c'è una forte pressione di carattere demografico, ma a parte che già dall'inizio dell'anno abbiamo visto che l'aumento degli sbarchi in 15 giorni 1000 persone, sono dati clamorosi. È una piccola città, ogni 15 giorni che arriva nel nostro territorio bisogna mantenerli completamente, dargli da mangiare. Vabbè, insomma, diciamo il reato ci vuole, però io devo chiudere qui. Bitonci, le posso fare una domanda, però sia sintetico perché è l'ultima domanda, ho 20 secondi. Secondo lei, sia onesto, il ministro Chieng è stato scelto perché è ministro della pelle nera? Secondo me hanno fatto un grande autogol e l'hanno fatto apposta, e non si sceglie un ministro solamente per il colore della pelle, ma lo si fa per le sue competenze. E nel caso specifico la Cécile Kyenge, come altri ministri del governo Letta, non aveva nessuna competenza per lei specifica in però materia. Quindi secondo lei sì, ce l'ha scelto per quello, per fare, diciamo, una scelta, un autogol addirittura. Adesso no, una scelta che dicono a noi, ma questa è una scelta veramente demagogica, perché un ministro non si sceglie certamente per il colore della pelle, ma per la competenza. Potrei fare un altro esempio. Sì. Se mette ministro dello sviluppo economico una persona come Zanonato, che non ha mai avuto niente a che fare con lo sviluppo economico. Infatti oggi sulla Padania c'è anche qui Zanonato, no? L'agenda di Zanonato. Va bene, mi devo fermare, vi ringrazio. Massimo Bitonci e Livia Turco. L'appuntamento è rinnovato a domani alle 6.30. Grazie a Anita Panizzi, a redazione, con Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapea. Domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.